Generazione Zero, dalla Libia all'Afghanistan, passando per la Somalia, gioventù fallite in stati falliti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Habiba and Mohammed are 8-year-old Syrian refugees. For their entire lives, war has raged on in their home country. Samir Dawood says she cries every day because her children don't have a father. It's very scary, and it's my first time I listen to the Larsos. Welcome back to our place of work. Generazione Zero. Stati falliti o in cui si combatte da troppo tempo. Spesso a soffrirne sono i bambini e i giovanissimi. La scuola è la prima cosa che salta, così come l'assistenza alla natalità. Ma con quali conseguenze? Che intere generazioni sono cresciute senza formazione, istruzione ed educazione. Spesso sono venute su a sostegni dell'ONG, se va bene, o pane, quando c'è, e Kalashnikov. Non sanno fare molto. L'educazione sentimentale per quei giovani è stata criminale. Hanno sentito sparare, hanno imparato a sparare. Sono nati in fuga e hanno imparato a fuggire, ripararsi, sperare in un aiuto da qualcuno per sopravvivere. Così, a uno stato già fragile, loro, i più fragili, che dovrebbero, una volta divenuti maggiorenni e cittadini, risollevare quello stato, lo rendono ancora più fragile. Aggiungono problematicità, non rinascita. Sono generazioni future invalide, zoppicanti, spesso senza strumenti, senza lavoro e senza speranza. Questo avviene in molte zone del mondo, dall'Afghanistan ad Haiti passando per Yemen, Siria e Somalia. Occuparsi dei bambini e dei giovani non è soltanto eticamente e dal punto di vista del diritto internazionale necessario, ma è anche un buon obbligo da un altro punto di vista. Che stati stiamo consegnando nel mondo alle giovani generazioni? Stati falliti per generazioni fallite. E non vale il «chi se ne frega, sono lontani da noi», che, oltre che eticamente discutibile, è totalmente erroneo. Lasciare un Afghanistan o una Somalia falliti a una generazione di perduti vuol dire lasciarli a chi approfitta delle vulnerabilità e fragilità. L'estremismo islamico, per esempio, ma non solo. Bastano un paio di imam e un paio di scuole coraniche con benefici intenti piazzati in posti strategici. Basta un sermone sbagliato per accendere finte speranze e voglie di riscatto. Mi è capitato di osservarlo, nel nord-est della Nigeria, per esempio, o in Somalia, o in Afghanistan. Così, mentre loro, i giovani di questi paesi, crescono, forse dovrebbe crescere la consapevolezza della comunità internazionale nell'occuparsene. Non solo per pietà, compassione, quello che qualcuno oggi chiama buonismo, ma sapete anche perché? Perché un giorno, se non ce ne occupiamo noi, saranno quei giovani perduti a occuparsi di noi, nel riparato e privilegiato Occidente. E non sono sicuro, sarà una cosa buona. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, questo è il tema di quest'oggi e anche un po', se volete, una provocazione. Il tema sul quale vi invito a mandarmi commenti e domande. 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quello che è un suggerimento o una provocazione, se preferite, è esattamente questa. Gli stati falliti, ormai è una denominazione che non si usa più, si preferisce usare il termine stati fragili. Sono qualcosa che interessa solamente il cosiddetto terzo mondo, il sud del mondo, oppure dovrebbero diventare una priorità per l'intera comunità internazionale? Provando a estremizzare il discorso, avete sentito, ho ipotizzato e raccontato quelle che sono anche vicende che sono già accadute. Zone rurali, magari dell'Afghanistan o della Somalia, di cui la comunità internazionale non si occupa, vengono riempite. Quel vuoto della comunità internazionale viene riempito da qualcuno che ha un'agenda un po' diversa. E così magari un imam particolarmente spregiudicato, che magari arriva da qualche paese del Golfo, una moschea finanziata ad hoc, potranno sfornare una nuova generazione che potrebbe anche mettere in pericolo non solo quello Stato, ma anche l'Occidente. Su questo aspetto i vostri commenti. La prima cosa che faremo però, come sempre, è misurare la temperatura. Non ne abbiamo parlato fino a questo momento perché dopo le dimissioni di Ghassan Salamè, che ormai risalgono a 3 giorni fa, inviato speciale dell'ONU per la Libia, attendevamo noi tutti, qua almeno in redazione, lo garantisco, trepidanti quello che poteva essere il suo successore. Se seguite la attualità internazionale non vi sarà sfuggito che Salamè si è dimesso da quell'incarico con un tweet anzi. La mia salute non mi permette più di sopportare questi livelli di stress, ha scritto sul noto social, e quindi, così ha proseguito Salamè, ho chiesto al segretario generale di sollevarmi dalla missione. Auguro alla Libia pace e prosperità. Sostanzialmente per oltre 2 anni il libanese accademico, una figura preeminente anche dal punto di vista culturale, ha provato a mettere insieme le tante anime della Libia e i tanti interessi degli attori internazionali, ma non ci è riuscito e così ha gettato la spugna. Un docente al Middle East Institute, Emadin Badi, aveva scritto che Salamè è una figura che rispetto ad altri inviati aveva capito molto meglio la Libia e si era impegnato profondamente nella risoluzione del conflitto. Purtroppo però, ha continuato lo studioso, si è trovato in una congiuntura critica dove troppi attori stranieri, anche europei, mettevano in campo politiche controproduttive rispetto agli obiettivi del suo lavoro. Nonostante le dichiarazioni di Antonio Guterres, che ha rassicurato su una transizione piuttosto indolore e anche piuttosto veloce, per il momento ancora il nome non è uscito. Secondo dossier che ha acceso la nostra attenzione, torniamo in Myanmar dopo mesi di assenza da parte nostra, evidentemente era un po' che non ne parlavamo, perché si stanno verificando continui scontri nei due stati occidentali, quello di Rakhine e quello di Chin. Vi sarebbero combattimenti piuttosto intensi tra l'esercito regolare e il gruppo armato Arakan, sono ribelli che si battono per maggiore autonomia nel territorio, soprattutto per il gruppo etnico dei Rakhine, che però sono considerati terroristi dal governo centrale. Al di là del bilancio fino adesso, ma le fonti discordano, di 11 vittime, l'altro pezzo del bilancio, quello che è particolarmente drammatico, è che vi sarebbero almeno 120.000 sfollati dall'inizio di novembre. Non sono dinamiche nuove nella regione, già nel 2017 un conflitto con la Rakhine Rohingya Salvation Army e l'esercito aveva causato l'esodo di quasi 1 milione di persone, 750.000, verso il vicino Bangladesh. Quella vicenda portò poi la stessa Aung San Suu Kyi a sopportare l'accusa di genocidio contro la Corte Penale Internazionale. Stiamo più o meno in zona, dico più o meno perché dobbiamo viaggiare verso nord, nord-ovest, arriviamo in India, ma in particolare in Kashmir, nella regione autonoma contesa. Mentre a Nuova Delhi ancora ci si lecca le ferite per i furiosi scontri che sono avvenuti soprattutto tra polizia e componente musulmana della popolazione dopo l'introduzione di quella legge che discriminava i musulmani stessi, e c'è una buona notizia che arriva dal Kashmir, è la riapertura, pensate, 7 mesi dopo, della rete di internet in quella regione contesa, che ha provocato non soltanto, secondo molti, una repressione ferocissima senza testimoni da parte dell'esercito indiano, ma anche un impatto fortissimo a livello sociale e anche economico. Vedremo se sarà un segnale di apertura che arriva dal premier Narendra Modi verso la componente Kashmira e quella sfortunata regione. Mentre vi parlo, si stanno incontrando, e in realtà speravamo noi di Nessun Luogo Lontano di darvi già qualche ragguaglio, Erdogan e Putin a Mosca. Dico speravamo di darvi qualche ragguaglio perché l'incontro dura ormai da quasi 3 ore e al di là di alcune dichiarazioni di circostanza rilasciate da Vladimir Putin non è uscito nulla di sostanziale. I due si sono incontrati dopo che le tensioni nella zona di Idlib sono arrivate a un livello davvero altissimo. Nel frattempo, mentre la redazione continua a buttare un occhio alle agenzie, la Turchia ha schierato, e qua ci spostiamo al confine con la Grecia, ma come dire, la crisi è sempre quella più o meno, agenti pienamente equipaggiati, si parla addirittura di forze speciali sul fiume Evros. Se non erro, almeno 1 migliaio di agenti. Il tutto arriva dopo che la giornata di ieri ci ha consegnato, ma dobbiamo usare ancora una volta il dubitativo, 1 morto e almeno 5 feriti. Il governo ellenico ha negato qualsiasi responsabilità, dice che non ha sparato, mentre se osservate Twitter, sui social girano alcuni video che difficilmente sembrano sconfessabili, che mostrano polizia turca e polizia greca che si scambiano colpi di lacrimogeno proprio lì sul confine. Questa era l'ultima notizia, il nostro ricco termometro internazionale. Adesso torniamo al tema di oggi. Mentre arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666, qualcuno suggerisce ricette per il recupero degli stati falliti o quasi, per esempio la missione europea in Kosovo, e lo stesso ascoltatore dice si tratta però di una realtà più vicina. Il tema è questo: possiamo disinteressarci di stati apparentemente lontani? Possiamo, per esempio come la Somalia, oltre 30 anni di guerra civile, come l'Afghanistan, 7 ottobre del 2001 e poi il ritiro internazionale, possiamo, dicevo, demandare, per esempio al terzo settore, all'ONG, un lavoro che forse, a pensarci bene, attenzione, potrebbe essere o dovrebbe essere responsabilità internazionale, proprio per il motivo che dicevo prima: lo Stato fallito non conviene a tutti, a tutta la comunità internazionale. Particolarmente sensibile della prima storia di oggi sono Medici Senza Frontiere, che peraltro ha lanciato dal 16 febbraio al 7 marzo una campagna, il cui nome forse, come dire, vi suonerà leggermente distonico. Il nome è Nati in Emergenza, è la sfida per la sopravvivenza in sala parto. A questo punto direte voi, ma sarà la prima urgenza un reparto di ostetricia, in una zona di guerra? A ben vedere è proprio così. Dicevo, la campagna si chiama Nati in Emergenza e coinvolge 6 ospedali in varie zone del mondo, tra i quali non poteva mancare ovviamente lo Yemen. Abbiamo raggiunto proprio in Yemen, in particolare nell'ospedale di Moka, Roberto Scaini, è un medico di MSF, 6 missioni nel paese, profondo conoscitore di quella realtà. A lui lasciamo dire dove si trova e cosa sta facendo esattamente. Allora, io mi trovo nella città di Moka, che si trova a costa occidentale, sud-occidentale dello Yemen. E sono qui a dirigere il progetto di chirurgia di emergenza e di guerra. Una cosa tra l'altro molto interessante è che il progetto è nato un anno e mezzo fa, quando c'è stato un riattivarsi degli scontri proprio in quest'area del paese, e ben presto abbiamo aggiunto alla componente di pura chirurgia traumatologica e di guerra anche un'attività di assistenza alle gravidanze complicate, perché ben presto ci siamo accorti come un qualcosa che nulla ha a che fare apparentemente come la guerra, quale per l'appunto una gravidanza, quando incontrava delle complicazioni non trovava le risposte sanitarie adatte, ovvero sia le madri e i bambini, o tutti e due, uno dei due appunto, morivano proprio perché non c'erano strutture sanitarie in grado di affrontare queste problematiche. Così, seppure poteva sembrare un po' in contrasto con l'idea un po' strana, insomma, rispetto all'idea iniziale con cui era partito il progetto, abbiamo cominciato anche ad aggiungere questa componente ostetrica, che oggi è assolutamente rilevante proprio perché diamo assistenza a questi parti che porterebbero nella maggior parte dei casi appunto ad un esito del tutto infelice. E la cosa mi piace sempre sottolinearla, perché abbiamo sempre un po' l'abitudine di considerare la guerra come un soldato che spara contro un altro, mentre ci dimentichiamo troppo spesso, soprattutto in conflitti prolungati come quello yemenita, che ormai va avanti da almeno 5 anni, ci dimentichiamo invece che non sono solo i due militari in conflitto, le due parti in conflitto chiaramente ad essere interessate, ma un po' tutta la popolazione che viene privata da quella che a me piace chiamare la normalità. Sarebbe normale avere un ospedale, sarebbe normale avere un centro, che nel caso specifico che sto portando in questa tesi è un centro che può dare assistenza ad una gravidanza complicata. Ecco, questa normalità non c'è più e lì si arriva al dramma. E allora c'è sempre un po' questa cattiva abitudine di considerare le morti dovute al conflitto solo come quelle direttamente interessate da scontri a fuoco ed eventi bellici, e mai invece di considerare, come invece andrebbe fatto, vittime tutte quelle che lo sono proprio, cioè sono correlate alla guerra, sì, proprio perché vengono private da una situazione di normalità quale dovrebbe essere appunto l'assistenza medica. Abbiamo fatto un passo indietro, quasi fosse filologico, perché prima di parlare di generazioni perdute, cioè di bambini e poi adolescenti, bisogna capire come e in che situazioni nascono. Ce l'ha spiegato e ce lo sta spiegando molto bene il dottor Roberto Scaini, medico di MSF, 6 missioni in Yemen, l'ospedale di Moka. È interessante valutare e comprendere come tra le priorità di chi fa emergenza non vi sia soltanto il reparto di traumatologia, pensate alle ferite di arma da fuoco, i soldati a cui faceva riferimento il dottor Scaini, ma poi anche madri che possono avere gravidanze particolarmente complesse a causa appunto della guerra. Ma quant'è lo sforzo anche economico per un'organizzazione aggiungere l'ostetricia, quindi il grande paradosso, no, di far nascere la vita in una zona di morte rispetto all'impianto di una clinica a tutti gli effetti che cura traumatologia e ferite da guerra? Sentite Scaini. Tanto, nel senso che è senz'altro un'esperienza che come organizzazione medico-umanitaria abbiamo, però è chiaro che va aggiunto un qualcosa che non era stato predisposto all'inizio, e quindi questo in termini di risorse umane o di investimento anche economico, perché chiaro, nessuno regala niente, quindi dietro c'è sempre anche un costo di queste operazioni, sì, lo sforzo e anche lo sforzo strategico del fare tutto questo è senz'altro notevole. Strategico perché alle volte non si considera mai che non è sufficiente aprire un ospedale in un posto, poi bisogna considerare tanti altri aspetti che sono, per esempio, per fare un esempio che è facilmente comprensibile, come la popolazione potrà raggiungere questo posto, come le donne gravide, nel caso specifico, potranno raggiungere il nostro ospedale in una zona di guerra dove muoversi può essere difficile o addirittura proprio pericoloso, perché spesso le strade sono tagliate da conflitti, e quindi questo poi necessita anche fare lo sforzo di mettere in piedi questo network di ambulanze o di mezzi proprio per raggiungere l'ospedale. Quindi sì, lo sforzo è senz'altro notevole e l'attività non è così ovvia come invece potrebbe sembrare, però sì, senz'altro ne vale la pena. Insomma, la vita ancora, la guerra distrugge la vita, penso che sia importante che qualcuno si prenda la responsabilità appunto di farla continuare questa vita. La voce e il commento di Roberto Scaini, raggiunto a Moka in Yemen, 6 missioni nel paese, quel paese lo conosce molto bene. L'idea di MSF è aiutare anche una corretta natalità in zone di guerra. Una volta che si raggiunge questo primo obiettivo, poi però andiamo nel cuore, se volete, del problema e della provocazione che vi lancio in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Una volta che il bambino è nato e che presumibilmente la madre sta bene, quel bambino crescerà in una situazione per noi molto distante, surreale, drammatica, tragica, perché imparerà solamente non solo a non andare a scuola, ma a sentire il suono dei Kalashnikov, riceverà quella che chiamavo all'inizio un'educazione anche sentimentale, soprattutto criminale. Possiamo ignorare tutto questo in così tanti teatri nel mondo? Siamo sicuri che questa cosa prima o poi non ritornerà in Italia? Detto ciò, rifacciamo un altro passo indietro. Oltre alle ferite visibili, quale malattia, quale virus hanno questi ragazzi cresciuti in un contesto di guerra? Sentite ancora Scaini che parla di Yemen, dallo Yemen. Questo è un'altra pericolosissima malattia, virgolettata, una tragica malattia, proprio perché avremo una generazione che non è cresciuta nella guerra, ha avuto spesso anche come ideale un ideale di violenza, un ideale magari di vendetta, un'immagine di morte, non ha avuto alcuna educazione, quindi senz'altro i giovani di oggi sono privati da tutto questo. La cosa più drammatica è che i giovani di oggi, che da questo vengono privati, da un'educazione, da una cultura, e anzi vengono poi sottoposti a messaggi del tutto sbagliati di violenza, sono i giovani sui quali si dovrà puntare per ricostruire il paese, perché insomma si arriverà senz'altro alla fase in cui dei messaggi diversi, comportamenti diversi e una storia diversa dovrà essere messa in atto. Però saranno queste generazioni che dovranno farlo, che sono cresciute invece in un contesto dove la violenza è diventata la normalità. E peraltro non è per vendere la solita immagine che magari è da mettere nella prima pagina di un giornale, ma vi racconto una cosa che ci capita comunemente. Anche oggi sono andato a fare un assessment in una struttura ad un'oretta da qua. Ci sono numerosi checkpoint, e in questi checkpoint è molto facile vedere dei ragazzini che possono avere l'età di mia figlia, 16 anni o anche più piccoli. Ecco, questa, ripeto, non voglio vendere la solita immagine del bambino soldato, ma voglio sottolineare una realtà che mi sembra sia molto pertinente con la domanda che mi ha fatto. La voce di Roberto Scaini, medico di MSF dall'ospedale di Moka in Yemen. L'ultima immagine che ci consegna è plastica e riassume il senso di questa puntata. Nascere in una zona di guerra significa avere ottime probabilità di finire come un soldato, quindi una carriera che forse non tutti hanno voglia di abbracciare. Le vostre immagini, i vostri commenti invece al 349-238-6666. Cami da Caorle mi dice che ho centrato il punto. Io che non ho esperienza di quei luoghi non posso dare una mia opinione, dice, ma se solo adoperiamo quel poco di cervello non si può che essere d'accordo. L'Occidente adopera quei territori solo per i propri interessi, senza vedere al di là del vil denaro. Io aggiungerei che è proprio una questione di lungimiranza politica. Io credo che la stabilità in questo senso e lavorare sulle giovani generazioni possa essere considerato un asset strategico della comunità internazionale. Poi c'è qualcuno al 349-238-6666 che tuona contro l'ONG, ma scusate, qua sto esattamente dicendo il contrario. Io credo che dovrebbe essere la comunità internazionale a proporre questo tipo di progetti, anche se la compassione o la pietà non sono molle sufficienti per alcuni di voi, per la sicurezza nazionale, proprio così. Allora, tra pochissimo faremo una piccola pausa, andremo a sentire come vanno le borse e poi proseguiremo in questo viaggio, perché voglio raccontarvi di quanti sono i teatri in cui rischiamo di non soltanto consolidare e cristallizzare la fragilità di quegli stati, e la storia del terrorismo internazionale ci ha consegnato già storie molto molto evidenti di questo tipo, ma vi racconteremo anche delle storie e forse, chissà, magari degli accenni di soluzione. Ma perché questo suona tema dovrebbe arrivare solo in Italia? Perché c'è Salvini e i suoi seguaci? Ridicolo, mi dice un ascoltatore. Guardi, non ho nemmeno nominato l'Italia. Rispondo così all'ascoltatore, che era peraltro quello che precedentemente puntava il dito contro l'ONG. Io sto parlando di asset strategico della comunità internazionale. Il mondo è complesso, ma sempre più piccolo e sempre più globalizzato. Non possiamo pensare che una crisi in Medio Oriente prima o poi non ci riguarderà, se non come Italia, come Unione Europea. Ma io credo che la cronaca costante e l'attualità internazionale ci restituiscono, e complice ne sia le notizie che arrivano dalla Turchia adesso, che non possiamo non occuparci di Turchia, se no sarà la Turchia a occuparci di noi, per usare un'espressione forse un po' troppo abusata. Detto ciò, 16, 29, 49 secondi, l'informazione finanziaria. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, complice una serie di notizie di stretta cronaca che arrivano da tanti settori e quadranti in guerra del globo. Ci stiamo ponendo una domanda: quanto possiamo ignorare luoghi in cui vi sono guerre civili o conflitti o crisi che perdurano ormai da 5, 10, 15, 20 anni, addirittura 30 anni in alcuni casi? Che tipo di generazioni di cittadini stanno sorgendo da quei territori? Hanno studiato, hanno strumenti, saranno capaci di essere buoni lettori, buoni governanti di quei paesi, o piuttosto, data la loro fragilità, che continua ad alimentare la fragilità di quegli stati, non potrebbero essere facilmente tirati per la giacchetta? E diamo come esempio il terrorismo islamico, non deve essere certamente solo quello il nostro pensiero, appunto facilmente attirati in orbite criminali. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Intanto arriva un messaggio che Francesca da Padova, che da un lato mi dà ragione, dall'altro però mi permetto di dissentire dalla tesi dell'ascoltatrice, perché dice: coloro che stanno fuggendo da Siria, Afghanistan, Iran e lasciati passare verso la Grecia sono i futuri terroristi islamici. Mi sembra una generalizzazione che non è fondata su alcuna statistica, francamente. Ha ragione quando dice un progetto di Erdogan da sempre per mostrare la debolezza dell'Europa, ma non credo francamente nell'invasione islamista. Queste tesi un po', diciamo, che accarezzano il complottismo, su di me non trovano particolare affinità. Prima di farvi sentire la voce del prossimo ospite, vi do anche ragione di una agenzia appena arrivata. I responsabili, i direttori esecutivi di UNICEF e del World Food Program hanno fatto una missione in Siria dove hanno ribadito che cosa? Che in un paese che sta per entrare nel decimo anno di conflitto, un terzo della popolazione vive nell'insicurezza alimentare, un bambino su tre non va a scuola e la metà delle strutture sanitarie sono fuori uso. E poi non dobbiamo, come dire, stupirci di quei 138.000, a sentire le fonti di stampa turche, che in questo momento sono assiepati al confine con la Grecia. Cambiamo totalmente quadrante. Andiamo in Afghanistan e lo facciamo con Giuliano Battiston, ricercatore, giornalista, freelance. Giuliano, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, andiamo in Afghanistan, un paese fresco di elezioni, pur discutibili nel suo valore politico, vista l'esigua quantità di afghani che ha votato. Un paese fresco di accordo tra USA e Stati Uniti e talebani, ma lo stesso Battiston, più o meno recentemente, è tornato dal paese. La guerra è scoppiata dal 7 ottobre del 2001, fanno 19 anni di guerra. C'è qualche, Giuliano, qualche faro? Un articolo di Altre Economie dell'anno scorso, un bellissimo reportage, raccontava l'House of Flowers di Kabul, una scuola, pensate, montessoriana, dove il celebrato metodo italiano è finito a Kabul, ma è una punta di diamante, un'eccellenza. Giuliano, tu che visiti molto le scuole, i licei, le università, come definiresti i giovani studenti afghani? Che livello hanno? Ma forse non c'è un livello medio, anche a causa delle differenze molto profonde del paese, per esempio tra le aree rurali e le città. Un conto è nascere in un villaggio, per esempio, della provincia di Faryab, al confine, sì, con il Turkmenistan, un conto invece a Kabul. Ma anche all'interno delle città ci sono molte differenze tra i quartieri, tra le famiglie, tra le fasce sociali, perché quell'afghana è una società molto gerarchica, piuttosto polarizzata, divisa, che sta concedendo molto ai pochi, cioè all'elite che ha beneficiato del nuovo assetto politico e istituzionale successivo al rovesciamento dei talebani nel 2001, come ricordavi, sì, e poco concede invece a molti, anche in termini di educazione. E la vera differenza, poi, oltre a quelle già descritte, è quella tra i ragazzi e le ragazze, perché quando uno prende i dati molto contestati del numero di ragazzi che frequentano le scuole obbligatorie, secondo alcuni sarebbero 11 milioni, secondo altri 9 milioni, secondo altri 7 milioni, quando si prendono e si disaggregano, si accorge che alla fine le ragazze hanno molte meno opportunità, abbandonano molto più frequentemente. In linea generale, per sintetizzare, direi che gli studenti afghani sono volenterosi ma sfortunati, perché c'è una forte spinta sociale all'istruzione, l'idea molto radicata che l'educazione sia uno strumento di emancipazione, ma le condizioni materiali fanno sì che questa spinta venga dispersa. Le istituzioni hanno, sì, troppo delegato all'associazionismo e ai privati. Sì, sì, e questo è un aspetto che fra l'altro alcuni ascoltatori stanno scrivendo al 349-238-6666, tornando al grande paradigma più generale che vi sto proponendo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Qualcuno dice: gli stati stanno demandando all'ONG un compito che dovrebbero fare loro. In questa puntata Giuliano Battiston, lo ricordo, ricercatore, giornalista, freelance, esperto di Afghanistan, paese che visita e racconta da parecchi anni, stiamo analizzando le vulnerabilità dei sistemi educativi dentro a stati fragili. In parte mi hai già spiegato qual è la più grande vulnerabilità maggiore in Afghanistan, penso di aver capito: zone rurali dove magari per andare a scuola devi fare decine di chilometri, quindi non ci vai. Ma allora, in ultima istanza, quale sarà la classe dirigente afghana? Ci può essere un ricambio o sarà quell'elite di cui hai parlato tu che continua, come dire, a tenersi cara la poltrona, per usare un'espressione italiana, e quindi non vi può essere un ricambio, nuova linfa vitale, e quindi quello stato fallito rimarrà fallito sempre? Ma sul rapporto tra fragilità statuale e vulnerabilità dei sistemi educativi, l'Afghanistan è un po' un caso paradigmatico, perché in Afghanistan, come altrove, quei due elementi si alimentano a vicenda. E anche in Afghanistan, a dispetto dell'impegno della comunità internazionale, che è stato molto sbandierato, ma comunque l'educazione è stata e continua a essere la vittima principale di questa crisi, che si è aggravato nel 2001, ma che nasce dal 1978 con un colpo di Stato che poi ha favorito l'intervento militare dei sovietici. Secondo me la vera vulnerabilità è che da allora e fino ad oggi l'educazione è anche un campo di battaglia ideologico che è parallelo a quello, al fronte militare vero e proprio. Così, se negli anni 80 c'erano il governo, il regime comunista che si contrapponeva attraverso il campo dell'educazione, il Mujahideen, e oggi invece più recentemente a contrapporsi sono il governo e i talebani. Entrambi infatti sanno che la legittimità del potere passa per il monopolio dell'educazione prima ancora che per quello della violenza, quindi una delle cose che dovranno decidere consensualmente quando e se siederanno al tavolo negoziale i rappresentanti del governo di Kabul e i talebani sarà anche che tipo di educazione dare ai futuri cittadini afghani e quale idea di società riflettere quell'educazione, una questione di cui ci dimentichiamo ma che sarà centrale per il futuro del paese. E certo, perché mentre qualche penna scriveva pace fu tra Stati Uniti e talebani, adesso si apre un lungo e doloroso capitolo e forse anche un braccio di ferro con Ashraf Ghani, il neo rieletto presidente afghano, e ne sia prova le notizie che davamo ieri di ulteriori morti e bombardamenti sulle truppe delle forze di sicurezza afghane, appunto. Giuliano Battizon, giornalista freelance, siamo all'ultima domanda che forse è, diciamo, tra gli spettri che possiamo evocare della fragilità degli stati, quello che potrebbe o dovrebbe preoccupare di più l'Occidente, qua sono chiaramente molto molto egoista, cioè jihadismo, quindi terrorismo islamico, magari transnazionale o addirittura internazionale. Al-Qaeda ha trovato covo in Afghanistan, ma anche in Pakistan per parecchio tempo. Quanto i talebani, con l'introduzione di una sharia piuttosto rigida, potranno garantire le scuole coraniche come vogliono loro, come preferiscono loro, e evitare l'estremismo in una situazione di grande povertà e di fragilità di tanti giovani afghani, secondo te? Ma a livello generale il legame tra scarsa istruzione e, diciamo, tendenza all'estremismo non è propriamente provato. C'è ad esempio un bel libro di uno studioso italiano che si chiama Diego Gambetta, pubblicato dalla casa editrice Bocconi, che si chiama Ingegneri della Jihad, i sorprendenti legami tra istruzione ed estremismo. Anche se guardiamo la storia dei jihadisti più noti, ci accorgiamo che spesso vengono da famiglie abbienti, hanno alle spalle studi importanti. Nel caso afghano l'accordo tra i talebani e gli Stati Uniti prevede una cosa piuttosto curiosa, ovvero che i talebani da nemici diventino alleati nella lotta contro il terrorismo e che quindi continuino a combattere lo Stato Islamico, che ha fatto ingresso in Afghanistan dalla fine del 2014, e che si smarchino dall'alleanza molto fragile e combattuta con Al-Qaeda. Come si traduce questo nel sistema delle educazioni è difficile da dire. Certo che i talebani, sebbene si chiederanno da una posizione di forza al tavolo negoziale con i rappresentanti del governo di Kabul, però dovranno tener conto di una società che è profondamente cambiata e che ha scarsissima considerazione del loro regime degli anni 90 e che pretende ambizioni molto diverse dal passato. Certo, questa è la fotografia che ci consegna Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, freelance, lo potete leggere fra gli altri sul Manifesto ma anche ISPI. Giuliano, grazie mille e buon prossimo viaggio in Afghanistan. Alla prossima, Giuliano, grazie. Grazie a voi. Ha ragione Giuliano Battiston quando dice la leadership terrorista molto spesso sono persone dell'alta borghesia, studiosi. Pensiamo anche al Baghdadi, veniva da una buona famiglia, Osama Bin Laden, parte della famiglia Bin Laden, ha studiato a Londra. Ma io forse mi concentrerei anche su quella che è la bassa manovalanza, quindi il reclutamento spicciolo, quello che arriva dalle zone più povere, dove non c'è speranza, dove c'è povertà, dove forse alcuni messaggi possono attecchire con grande facilità. 349-238-6666. Cosa facciamo? Diamo un po' di numeri, Valeria Bernardi? Diamo i numeri allora, che detta così suona un po' male, ma lo sapete, noi in nessun luogo quando diamo i numeri lo facciamo più o meno così. Secondo l'Istituto di ricerca americano Found for Peace, che ogni anno compila la classifica degli stati fragili, nel 2019 la nazione più fragile del pianeta è lo Yemen, seguito da Somalia, Sud Sudan e Siria. Per stilare la classifica, l'Istituto analizza vari fattori raggruppati in quattro macroindicatori: economia, politica, società e coesione. Ma tra i fattori più importanti c'è l'istruzione. Secondo lo studio più rilevante sul tema, compilato 3 anni fa dalle professoresse Rebecca Winthrop ed Elena Matsui della Brookings Institution, nei paesi fragili, nazioni con guerre in corso ed economie a pezzi, in cui il tessuto sociale e politico è quasi inesistente, sono circa 28,5 milioni i bambini in età da elementari che non stanno frequentando una scuola. In questi paesi, solo il 65% dei bambini riesce a finire le elementari, contro l'86% in media dei paesi poveri. Eppure, l'istruzione sarebbe fondamentale per spezzare il circolo vizioso di guerra e miseria di questi paesi. Secondo i dati elaborati da Winthrop e Matsui, 4 anni di scuola elementare possono incrementare la produttività di un contadino del 9% all'anno. Ogni anno di istruzione successiva aumenta la produttività del 10%. E se tutti i potenziali studenti degli strati fragili seguissero corsi scolastici con insegnamenti di capacità base di calcolo e lettura, si potrebbero salvare dalla povertà 171 milioni di persone. L'istruzione, infine, non ha solo un impatto benefico sull'economia, ma anche sulla politica, perché più bambini a scuola significa meno bambini disponibili a imbracciare un fucile. Se in un paese fragile si riesce a portare a quota 81% gli studenti che frequentano la scuola media, il rischio di una guerra civile diminuisce di 2/3. Questi un po' di numeri, un po' di cifre per meglio inquadrare il fenomeno. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Adesso la viabilità, come promesso, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano si apre con una breaking news data da New York Times. Proprio in questi minuti anche Elizabeth Warren lascia la corsa per le presidenziali. Il fronte democratico si sta assottigliando e ormai molto ragionevolmente se la vedranno Biden e Sanders, e poi in vista dell'ultima sfida, quella con Donald Trump. La tesi che vi ho proposto, la provocazione come l'ho chiamata all'inizio di questa puntata, è quanto la comunità internazionale può permettersi il lusso di disinteressarsi di stati fragili e di intere generazioni fragili che continuano ad alimentare fragilità di stato, di stati stessi. Un ascoltatore: secondo me ti sbagli se noti i cosiddetti lupi solitari che hanno colpito l'Europa o sono diventati foreign fighters, erano tutti nati, educati in Europa. Come ti spieghi questo? È la voglia di arrivare e riuscire, purtroppo fallire, che fomenta l'odio che poi viene canalizzato da personaggi oscuri, molto ben educati, per perseguire il loro fine. Tesi assolutamente legittima. Se andiamo però nel terrorismo degli anni 90, la jihad internazionale prevedeva una serie di tappe per farsi le ossa, così come lo è stata la Siria per lo Stato Islamico. Ci si addestrava in Sudan, si andava a farsi le ossa appunto e a combattere in Afghanistan, poi si tornava magari in Algeria. Vi ho appena raccontato in parte la storia di Osama Bin Laden, in parte quella di Mokhtar Belmokhtar. Il primo ormai è storia, il secondo tuttora attivo nel Sahel. Ma attenzione, e non ho la pretesa di avere la verità in tasca, era una provocazione e sono felice che l'abbiate accolta, anche contestando quella che è una tesi. Però vi invito a riflettere su un altro aspetto: non è soltanto il problema estremismo islamico, terrorismo. Quanto ci perde la comunità internazionale avere stati fragili e falliti? Un Haiti che non è, per esempio, centro turistico, con cui non si può avere una sana relazione economica. Una Somalia che è stata una colonia italiana ed è preda di 30 anni di guerra civile, che avrebbe nel turismo, per esempio, un acceleratore incredibile. Un Afghanistan, e vado a un altro problema, che sforna una delle diaspore più grandi al mondo, perché si continua a fuggire e quegli stessi afghani sono lì tra i 138.000 profughi che premono alle reti greche. Di questo possiamo non occuparcene? Allora, cambiamo quadrante, perché ho citato la Somalia. Vi faccio sentire una storia. La storia è di un ragazzo qualunque, potrebbe essere Abdi o Mudalla o chiamiamolo Abdi. È stata raccontata dal giornalista somalo-canadese Hassan Gedi Santour, è stata pubblicata sul sito Pulitzer Center, è un'organizzazione giornalistica non profit che si focalizza proprio sulle crisi dimenticate. Ascoltate questa storia. Abdi aveva solo 7 anni quando nel 2009 si è unito ad Al-Shabaab, il gruppo terrorista somalo affiliato ad Al-Qaeda. «Non sono stato costretto, l'ho fatto volontariamente», racconta. «Ma dopo tutti questi anni ho capito che mi avevano fatto il lavaggio del cervello». Abdi era intelligente e spiccava tra gli altri bambini della scuola coranica perché era molto bravo nel recitare a memoria il Corano. Il suo insegnante prese l'abitudine di passare del tempo dopo le lezioni con Abdi e altri studenti, parlando loro del paradiso e delle ricompense che spettano a coloro che muoiono per proteggere l'Islam e il proprio paese dagli infedeli. In pochi mesi, l'insegnante riuscì a convincere Abdi e altri 7 ragazzi dai 7 ai 17 anni a lasciare casa e a unirsi ad Al-Shabaab. Abdi ha trascorso 2 anni in un campo di addestramento, dove ha imparato a usare la pistola e ha partecipato a 2 missioni in combattimento, ma dice di non aver mai ucciso nessuno. La storia di Abdi, che arriva dalla Somalia, arriva dalla firma di Hassan Gedi Santour, è forse l'esempio più plastico, più emblematico di quel circolo vizioso cui facevamo riferimento proprio a inizio puntata. Ma come cercavo di illuminare, non è soltanto un problema di terrorismo o di estremismo islamico. La fragilità, la vulnerabilità porta a mancate opportunità economiche da un lato e quindi dall'altro molto spesso a corposi flussi migratori. La domanda in ultima istanza è: la comunità internazionale può voltarsi dall'altra parte? Non sarebbe più strategico e conveniente, ma ripeto, è una mia tesi che vi propongo, liberissimi di sconfessare, occuparsene invece direttamente senza appaltare a soggetti terzi questa funzione? Proprio ieri un ascoltatore al 349-238-6666, parlando della crisi siriana, turco-greca, mediterranea, diceva: ma tutti quei 5.6 miliardi in parte promessi, in parte dati, in parte in arrivo dall'Unione Europea alla Turchia, se l'Europa li avesse spesi di tasca sua forse avrebbe meglio gestito il problema migratorio. Quindi forse è solo una questione di assunzione di responsabilità. Allora, buon pomeriggio. Parlando sempre di numeri, scrive un ascoltatore: come possiamo spiegare la guerra in Siria considerando il tasso di istruzione abbastanza alto? E questo l'abbiamo visto nei profughi, soprattutto quelli reclutati dalla vicina Germania, la maggior parte di loro sono laureati, e fa bene questo ascoltatore a sottolineare quella famosa immigrazione di altissimo livello che secondo molti la Germania con grande astuzia si sarebbe accaparrata nel 2016. E quando scoppia una guerra civile, però, non è che la guerra civile guarda tantissimo in faccia a quello che è il livello di istruzione media del paese. È successo in Libia, è successo in Sudan, è successo in Algeria in parte, poi non è finita come è finita. Insomma, le sollevazioni, le manifestazioni non sempre hanno bisogno di un'elite culturale che li guidi, però l'osservazione mi sembra assolutamente giusta. Perché la parola Islam accompagna sempre la parola terrorismo? Così scrive un ascoltatore, probabilmente dal punto di vista dei numeri è corretto. Allo stesso tempo non si ricorda mai a sufficienza che la prima vittima del terrorismo islamico è il musulmano, cioè l'Islam stesso. Poi mi vengono in mente altri casi come Anders Breivik, per esempio, che di musulmano non aveva nulla, tutt'altro, era, come dire, un cristiano che rimescolava questa religione in maniera assolutamente benefica. Mi viene in mente il Lord Resistance Army, altri gruppi ribelli africani considerati nella lista dei terroristi. Io inviterei comunque a non fare di tutto un erbo fascio. Questo programma fa uno sforzo che è affrontare la complessità e le tonalità di chiaroscuro, e per il momento devo dire che i messaggi assolutamente la accolgono e la restituiscono. Forse l'ultimo messaggio non tantissimo, perché dice: la soluzione sarebbe la colonizzazione, ma finché i loro governanti spendono i proventi delle risorse in armi, non forse la colonizzazione, credo che sia, come dire, un atteggiamento arrogante ormai depennato agli anni 60 in quasi tutti i paesi. Parlando di Libia, spesso ne parliamo, vi ho riferito del polso dei libici, che dicono assolutamente non vogliono presenze straniere e ingerenze sul loro territorio. Gli ultimi 30 secondi di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno dice: i laureati sono arrivati e poi stanno tornando in Siria in vacanza ogni tanto. Ne conosco diversi, così facendo riferimento a quell'immigrazione di altissimo livello. Torneremo su questo tema, torneremo sul tema della fragilità degli stati, sulle responsabilità della comunità internazionale, ma come al solito Valeria Colonnello, ormai così soprannominata Bernardi, mi dà il suo usuale preludio ai titoli di coda e ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.